Zolt. Fulminati in azienda. Buongiorno a tutti, oggi ho chiamato il nostro super consulente Pierluigi Paragone. Ciao PG. Buongiorno, buongiorno. E il consulente Samurai. Oh. Perché il gioco qui si fa duro, occorre inventarsi una nuova organizzazione. La vorrei più piatta, anzi, come direbbe mio nonno, piallata. Io direi che occorrerebbe snellire l'organizzazione e renderla più piatta. Bene, bene, bravo, vedo che siamo della stessa idea, vedi che ci avevo visto giusto. Cosa dice? Cosa dice il samurai? Niente, sta facendo i suoi esercizi rituali per il sacrale taglio delle posizioni. Tagliamo, appunto, tagliamo. Ecco, Paragone, questa è l'organizzazione attuale. Fateci una pensata. Uè, ma che cosa ha fatto? Ha tagliato a pezzi i fogli dell'organigramma. Akazu-kan, il nostro consulente samurai, dice che ha semplicemente appiattito l'organizzazione tagliando le posizioni intermedie. Così tra te e gli operativi non c'è più nessuno. Uè, che efficienza, detto fatto. Akazu-kan, sei veramente Japan. Fammi vedere un po' l'organigramma nuovo. Ecco, ecco, vedi i fogli tagliati? Sì. Dovremmo riattaccarli così. Questo lo mettiamo sotto questo, che te sì. ne pare? È bella, bella, piatta, ecco, ma non vedo più la posizione di centrifuga. Dice che la posizione è stata cestinata direttamente con un colpo di spada. Adesso però, caro il mio Kawasaki, tocca diglielo a centrifuga. Vediamo se con le parole sei bravo come con la spada. Perché chi di spada ferisce, di spada sparisce. Ma cosa è successo, Schedula? Akazu-kan ha detto a centrifuga che tu gli hai tagliato la posizione. Lui si è incatenato alla poltrona e si è sbarrato in ufficio. Andatevene, tanto non esco manco se m'ammazzate. No, ma hai capito che bastardo il samurai? Gli ha detto che l'ho tagliato io. Sì, però ora senza il middle management come faremo? Chi? Dico chi? Farà tutto il lavoro sporco adesso. Vabbè, adesso non facciamo tragedie. Più efficienza, decisioni più rapide. Piuttosto, fate uscire di lì centri. Ci abbiamo provato. Dice che rimarrà incatenato fino a che non gli ridai la posizione. Scusa, che avevi visto il dottor centrifuga? Che sei tutto il giorno che non si fa vivo. Ecco, Paco, benvenuto, giusto tu mancavi. Paco, vieni qua, hai una missione. Devi fare uscire centrifuga e solo tu puoi riuscirci, da là. Mo m'incateno tutto, m'incateno pure vai, le braccia, Paco, vai, gambe, Paco, tutto. Vai, mi raccomando, se lo fai uscire ti promuovo. Oh, signor, veramente? Sì, una promozione, guarda. Diteglielo che non mi schiodo. Ve ne dovete annare, tanto non parliamo con nessuno, niente, ve ne annate adesso, hai capito? Marco Centrifuga ha convinto Paco a unirsi a lui, adesso si sono incatenati insieme. No, ma anche Paco, adesso chi è che lavora? Ah, sul pezzo, qui è il gruppo unito per rivoluzione subalterni. Se non ci ridà la posizione, ci incatenamo all'asta bandiera d'azienda fuori dalla finestra. Volemo de novo la nostra casella nell'organigramma. Ma perché, scusate, Paco aveva la casella? Ma adesso non possiamo a centrifuga, almeno a centrifuga, ridagli la casella senza ridagliela. Potremmo disegnare nell'organigramma una casella dove c'era prima la sua e dargli un altro nome. In questo modo brava, forse... Brava, brava, dai, brava, vado io a parlare con loro, dai, fate affare a me. Centri, mi senti? Ridateci la casella, se no non ci scuoliamo da qua. Non se sciodemo. Centrifuga, la tua posizione è intagliata, però ti ridiamo un'altra posizione nella stessa posizione di prima. Identica, anzi un po' meglio. E sai come la chiamiamo? Sai come la chiamiamo? Schedula, come la chiamiamo? Potremmo chiamarla progetti speciali. Progetti speciali. Centri, ti faccio RPS, responsabile dei progetti speciali. Progetti speciali? Ma non è una sola? Ma no, ma cosa dici? Assolutamente. Continui a fare le cose di prima. Con in più i progetti speciali. Guarda, sono proprio commosso. Ma è bello sta cosa. Mi sono sdrenata cervicale con le catene, ma ne valsa la pena. Paco. Sì. Paco, vieni qua, che mo se occupiamo dei progetti speciali. Ah. E in pratica, se fa mermazzo come prima, ma in modo più speciale. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.